Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Come era evidente e scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. E quindi la poltrona che salta è la sua, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Questo è uno dei passaggi principali del discorso di ieri del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, subito dopo, insomma, arrivati i voti dell'esito del referendum con la sconfitta del sì e quindi anche di Renzi e con la vittoria travolgente del no. Adesso però si aprono poi gli interrogativi sui scenari. Che succede adesso? Che succede nel dopo Renzi? Intanto è notizia di poco fa che il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato mandato a Renzi di congelare temporaneamente le sue dimissioni sino all'approvazione della legge di bilancio, insomma, se no, l'iter per chiudere, per mettere in sicurezza la manovra economica. E poi bisognerà capire, cioè, sono le opposizioni che chiedono di andare a elezioni quando e tra l'altro con quale legge elettorale. Insomma, ci interrogheremo su molte cose questa sera. Per le vostre osservazioni, per le vostre riflessioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Molti i temi questa sera, cominciamo intanto a capire che giornata è stata. La vittoria del no al referendum, il Presidente della Repubblica Mattarella chiede a Renzi di rimandare le dimissioni a dopo l'approvazione della manovra economica. Le opposizioni chiedono le elezioni, Grillo vuole andare al voto con l'Italicum e per il Senato in versione corretta. Salvini dice no a un esecutivo di scopo, Berlusconi chiede che il PD assicuri il governo del Paese. Le reazioni dei mercati, nessun panico dopo il referendum, Piazza Affari chiude in leggero ribasso, ancora vendite sui bancari, ma il Financial Times afferma che la crisi dell'Italia è una minaccia per l'Unione Europea più grave della Brexit. Conti pubblici, l'Eurogruppo chiede misure aggiuntive per la manovra che è a rischio di non rispetto del patto e sottolinea che motivo di preoccupazione è anche l'alto debito. Francia, il primo ministro Valls annuncia le sue dimissioni in accordo col presidente Hollande. La strage senza fine delle donne, ennesimo femminicidio, questa volta vicino Napoli. Un uomo ucciso fracassandole la testa alla moglie che lo voleva lasciare, il figlioletto di 3 anni. Poi si è suicidato. E in provincia di Milano è stato ritrovato il cadavere di una donna avvolto nel cellophane. Le morti sospette all'ospedale di Saronno, rimane in carcere il medico accusato di aver ucciso diversi pazienti. E per il calcio si chiude questa sera con 2 posticipi la giornata di Serie A. In campo ancora Chievo-Genoa. Partiamo quindi dalla politica con la travolgente vittoria del no al referendum costituzionale e le sue prime conseguenze. Poco fa vi dicevo, dopo un colloquio con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente della Repubblica Mattarella gli ha chiesto di mantenere il suo ruolo sino al completamento dell'iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio, onde, si legge nella nota del Quirinale, scongiurare i rischi di esercizio provvisorio. Esulta intanto il fronte del no dopo la vittoria, ma con alcune divergenze sulla questione del voto. Incassato il piano alle urne, il fronte del no guarda al dopo Renzi. La priorità resta allora quella di cambiare la legge elettorale per chiudere, appena le condizioni lo consentono, l'attuale legislatura. Ora ci troviamo con 2 leggi elettorali tra Camera e Senato molto diverse, spiegano dal Movimento 5 Stelle. La nostra soluzione è applicare la stessa legge al Senato su base regionale. Così Toninelli. Applichiamo la stessa legge diventata costituzionale anche al Senato e andiamo a votare. Per elezioni subito Salvini, ci rifiutiamo, spiega il leader della Lega, di perdere 6-7 mesi sulla legge elettorale, sulla stessa linea la Meloni, Fratelli d'Italia. No ai governi di Inciucio, no ai governi di Voltagabbana. Si può andare a votare con qualunque legge elettorale, ma si vada a votare immediatamente. No alla fiducia tecnica, sulla legge di bilancio avvertono da Forza Italia, nessun Renzi bis, dice Brunetta. Il PD ha il dovere di garantire a questo paese un governo perché si cambi la legge elettorale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche nel Partito Democratico la sconfitta di Matteo Renzi apre nuovi scenari. Si deve dimettere, come chiedono alcuni esponenti della sinistra Dem, che succederà? Ci sarà la direzione del PD la prossima settimana, ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Notte. E l'esito del referendum non cambia la situazione economica in Italia o nelle banche italiane. I problemi che abbiamo oggi sono quelli di ieri e bisogna occuparsene, così ha detto il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, commentando il risultato del referendum italiano. Un referendum che, al di là delle dichiarazioni normali, diciamo, inquieta l'Europa. Come sempre, qualsiasi sarà il prossimo governo, anche al prossimo esecutivo italiano, il governo federale offrirà una stretta collaborazione e partenariato. Berlino ribadisce che gli impegni restano quelli presi al vertice di Bratislava e prova a gettare acqua sul fuoco degli inevitabili sussulti politici seguiti al referendum italiano, con la cancelliera Merkel, che si dice dispiaciuta, e il potente ministro delle finanze Schäuble, che per sdrammatizzare ironizza. Italia ha molta esperienza nelle crisi di governo, Roma deve proseguire sulla strada delle riforme, dice Schäuble. Dalla Commissione il messaggio cerca di essere tranquillizzante. Il referendum italiano non rappresenta una minaccia alla stabilità dell'Unione, dice un portavoce, che precisa come Bruxelles sia in contatto con Roma sulle vicende bancarie. La linea, insomma, è chiara: non trasformare la sconfitta di Renzi in un boomerang contro l'Europa, che di problemi suoi ne ha fin troppi. Linea indicata da subito dal commissario agli affari economici Moscovici: l'Italia è un paese solido, abbiamo la massima fiducia nelle autorità del bel paese. In ogni caso si trattava di un referendum sulla Costituzione, non sull'Europa. E l'Eurogruppo, riunitosi per fare il punto anche sulla nostra manovra, invita Roma a fare i passi necessari per portare la finanziaria in linea con le regole del patto di stabilità, per evitare importanti misure addizionali, e ribadisce che l'alto livello del debito resta una preoccupazione per l'Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo adesso alle reazioni dei mercati. La vittoria del no al referendum e la crisi di governo non spaventano Piazza Affari. Il FTSE MIB chiude al ribasso dello 0,21% al termine di una seduta volatile dopo aver anche sconfinato in territorio positivo. Le vendite si sono concentrate sul settore bancario e in particolare su Banca Popolare di Milano, in calo del 7,91%, e Banco Popolare, in flessione del 7,44%. Pesa lo stop del Consiglio di Stato sulla riforma delle banche popolari, che rischiano così di pagare oltre 200 milioni agli azionisti che hanno esercitato il recesso. Male anche Montepaschi Siena, che ha perso il 4,21% dopo la scelta di far slittare di qualche giorno la decisione sul piano di ricapitalizzazione da 5 miliardi. Le banche del consorzio di garanzia sono infatti in attesa per l'incertezza del quadro politico. Sul fronte bancario, inoltre, oggi si è dimesso l'amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza, Francesco Iorio. Al suo posto dovrebbe arrivare già domani Fabrizio Viola, l'ex AD di Montepaschi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma il commentatore del Financial Times, Gideon Rachman, in un articolo pubblicato sull'online del quotidiano dal titolo La minaccia dell'Italia per il futuro dell'Europa, scrive: la crisi italiana potrebbe costituire una minaccia ancora più grave della Brexit per la sopravvivenza dell'Unione Europea. La Brexit e le dimissioni di Matteo Renzi fanno parte della stessa storia, scrive Rachman. Il progetto europeo è sotto una pressione senza precedenti, la decisione britannica di lasciare l'Unione Europea è la prova più evidente, ma nella lunga distanza la crisi in corso in Italia potrebbe costituire una minaccia ancora più grave per la sopravvivenza dell'Unione Europea. E dice anche: è possibile che Renzi sia uno degli ultimi premier italiani a rappresentare la tradizionale posizione pro-europeista del suo paese. Rimaniamo in Europa. In Francia il primo ministro Valls, in seguito alla sua candidatura all'Eliseo, ha annunciato oggi le sue dimissioni da primo ministro. Non posso più essere primo ministro da domani, dice, lascerò le mie funzioni di premier, in pieno accordo col presidente Hollande. Ancora dall'estero, le autorità di Oakland, in California, hanno aggiornato il numero provvisorio delle vittime dell'incendio scoppiato venerdì sera in un magazzino utilizzato come locale. I morti accertati sono 36, ma le ricerche continuano fra le macerie. Finora i morti identificati sono 11. L'incendio è divampato per cause ancora da definire al secondo piano del magazzino. Si è trattato di uno dei peggiori incendi nella storia moderna della California, secondo il Los Angeles Times. La strage senza fine delle donne, invece, in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Fratta Minore, vicino Napoli. Un uomo ucciso fracassandole la testa alla moglie, che si voleva separare da lui, e il figlioletto di 3 anni strangolandolo così forte da rompergli le vertebre, poi si è suicidato. E in provincia di Milano, in una cava dismessa di Cernusco sul Naviglio, nel pomeriggio è stato ritrovato il cadavere di una donna avvolto nel celofan. Siamo alla vicenda delle morti sospette. All'ospedale di Saronno rimane in carcere il medico accusato di aver ucciso diversi pazienti. Respinte dunque le richieste di arresti domiciliari. Sono 15 gli indagati nell'inchiesta su presunte morti sospette all'ospedale di Saronno nel Varesotto, lo ha confermato il procuratore capo della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana, tra loro il viceprimario del pronto soccorso Leonardo Cazzaniga e la sua compagna infermiera Laura Taroni, entrambi arrestati e accusati in concorso della morte per avvelenamento da farmaci del marito della Taroni e solo Cazzaniga di altri 4 decessi in ospedale. Altri 11 medici sono indagati invece a vario titolo per omessa denuncia, favoreggiamento e falso ideologico. All'esame degli inquirenti ci sarebbero però altri 30 casi, 30 cartelle cliniche di pazienti trattati da Cazzaniga e sui decessi della madre e del suocero della Taroni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi torneremo su questa vicenda nel corso di Effetto Note anche per cercare di capire come sia stata possibile anche questa connivenza tra esponenti, tra membri del personale medico che pare sapessero ma che non avessero detto nulla. E adesso ancora notizia dall'estero: in Georgia, negli Stati Uniti, un giudice ha condannato all'ergastolo un uomo per la morte del figlio di 22 mesi abbandonato all'interno di un'auto. L'episodio è successo nel 2014 ad Atlanta. Il bambino, lasciato per 7 ore rinchiuso nella vettura mentre il padre di 36 anni era a lavorare, è morto per il caldo. E a proposito di dimissioni di un primo ministro, ne parlavamo prima del primo ministro Valls francese, ha fatto il giro del mondo la notizia delle dimissioni di John Key, primo ministro della Nuova Zelanda, che ha deciso di lasciare fra pochi giorni l'incarico dopo 8 anni al potere con un consenso popolare ai massimi storici. Lui ha giustificato così queste dimissioni, dice: è giunta l'ora di trascorrere più tempo con la mia famiglia. Lui è un ex dirigente della banca d'affari Merrill Lynch ed eletto nel 2008. Un uomo che fa questa scelta. Per chiudere lo sport, cominciando dal basket, col clamoroso addio di Alessandro Gentile, che a sorpresa lascia l'Olimpia Milano. Prima l'amore, poi le liti, ora l'addio. Così il rapporto tra Alessandro Gentile e l'Olimpia Milano arriva al capolinea. Figlio e fratello d'arte, talento cristallino, capitano e trascinatore dei biancorossi campioni d'Italia, il 24enne azzurro. Poi le prime crepe. Alessandro, che ha appena vinto lo scudetto contro Reggio Emilia, confessa il suo desiderio di lasciare le A7 per volare nell'NBA, destinazione Houston. Il club di Giorgio Armani, che non la prende affatto bene, che all'inizio della nuova stagione lo degrada a mezzo stampa togliendogli la fascia di capitano. Da lì continue incomprensioni, gli atteggiamenti da stella del giocatore e i risultati della squadra di coach Repesa, finora sotto le attese soprattutto in Eurolega. E allora il clamoroso addio dopo 6 anni. L'Olimpia perde un talento, Alessandro vola all'estero per inseguire i suoi sogni con una maglia straniera. L'impressione è che stavolta ci perdano tutti, a partire dal basket italiano. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere, aggiornamenti sul calcio. Allora, la partita Chievo-Genoa, sono i due posticipi. Chievo-Genoa finisce 0-0, adesso in campo Udinese-Bologna. E con il calcio, quindi, chiuso il riassunto della giornata, tra poco cominceremo a approfondire alcuni argomenti, soprattutto la politica questa sera. Intanto ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia tra pochi istanti. Per quanto riguarda i vostri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Dopodiché, per esempio, stavo guardando ma rassicurateci che salta la sua poltrona, dice un ascoltatore a proposito delle dimissioni di Renzi. Pare che siano irrevocabili, anche se, come vi dicevo, Mattarella gli ha chiesto nel colloquio in tarda serata di restare fino alla messa in sicurezza della manovra economica. Poi invece Tonino da Civitavecchia scrive: in teoria non sarebbe da dimenticare il 40% che Renzi ha ottenuto da solo. Questo dato basterebbe per vincere le prossime elezioni. Dimettersi dal vertice del partito? Non penso. E anche questa è una bella domanda, ne parleremo tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, naturalmente tutte le sere dalle 21 alle 22 per avere un quadro aggiornato della giornata che si sta concludendo con le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. E questa sera naturalmente ci soffermeremo soprattutto sul dopo voto, sulla sconfitta del sì, la vittoria del no e quindi i possibili scenari che adesso si aprono. Intanto i vostri messaggi, le vostre considerazioni, continuate a mandarle alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Tra poco vi ricordo le notizie principali, visto che non tutti riescono puntualmente a accendere la radio alle 21 all'inizio di Effetto Notte. Intanto stavo ancora guardando i vostri messaggi al 349-238-6666. Per esempio, abbiamo perso un'occasione e ripreso il solito rimpallo di affermazioni e richieste ipocrite utili solo ai politicanti per arrivare, vediamo, sto aprendo questo WhatsApp, per arrivare a fine legislatura per garantirsi quei beceri privilegi. Il no salva poltrone è servito, ci meritiamo proprio Napolitano, Berlusconi, D'Alema, Bersani, Bindi, Salvini. Insomma, naturalmente continuano i messaggi da una parte e dall'altra. Per esempio Franco scrive: ho votato no e sono contento di aver salvato la Costituzione che per 20 anni ci ha protetto da Berlusconi. Grazie a una Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica indipendente, ci proteggerà dalle derive di Salvini o Grillo. Viva Lampi, dice Franco. Poi un messaggio invece di diversa direzione. Davide dice: Renzi almeno è stato coerente con quello che aveva detto poco tempo fa, e cioè se vince il no vado a casa, mentre per ora a livello economico e borse non cambierà nulla, più che altro restano da fare ancora riforme per la disoccupazione e tanto altro ancora. Tanto altro dobbiamo raccontare, quindi vi ricordo quali sono le notizie principali e poi passiamo a questa analisi di questo voto. Mattarella dice: prima bisogna approvare la manovra, dopo le dimissioni, e dice che Renzi, insomma, deve rispettare le scadenze. Il premier potrebbe però lasciare venerdì. Le opposizioni nel frattempo chiedono le elezioni, Grillo con l'Italicum anche al Senato in versione corretta. Salvini dice no, un esecutivo di scopo. Berlusconi chiede un voto in tempi brevi. E poi i mercati che non temono più il referendum, almeno dalle reazioni che hanno avuto, nessun contraccolpo. Milano ha recuperato. Il Financial Times però dice: la caduta di Renzi accresce i rischi per le banche. L'Eurogruppo nel frattempo chiede delle misure aggiuntive per la manovra economica italiana. E poi la vittoria del no divide anche il PD. Naturalmente Bersani dice: non lasciamo tutto questo alla destra. De Luca dice: una lezione, è tempo di umiltà. E poi mercoledì ci sarà la direzione del PD. Per quanto riguarda l'Unione Europea, rispetto delle decisioni del no, ma le riforme devono andare avanti e la Casa Bianca assicura che l'Italia è sempre un grande alleato. E poi Shinzo Abe, il premier giapponese, fa sapere che con Barack Obama, il presidente americano uscente, sarà a Pearl Harbor verso dopo Natale. Visita il 26 e il 27 dicembre, la prima volta dal 1941. Ci abbiamo provato, abbiamo dato agli italiani un'occasione, una chance di cambiamento. Era una chance semplice e chiara, ma non ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a convincere la maggioranza dei nostri concittadini. Abbiamo ottenuto milioni di voti, ma questi milioni di voti sono impressionanti ma insufficienti. Volevamo vincere, non partecipare. E allora mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. E dico agli amici del sì che ho perso io, non voi. E questo è un altro passaggio, dei passaggi principali del discorso di ieri di Renzi dopo l'esito del referendum, altri abbiamo fatti sentire all'inizio. Quindi siamo, come dire, al day after di questo voto, che ha visto la vittoria del no col 59,11% contro il 40,89%, tra l'altro con un'affluenza straordinaria del 67%. E adesso ci sono molteplici aspetti naturalmente su cui riflettere, poi dell'analisi del voto in specifico, dei flussi eccetera, ne parleremo dopo con un professore ricercatore dell'Istituto Cattaneo, del perché della sconfitta se ne è parlato molto nelle ultime ore. Quindi diciamo, tra le varie spiegazioni, è stato un voto contro Renzi per mandarlo a casa. Poi dice: no, in realtà è stato il voto di chi non voleva che si mettessero le mani sulla Costituzione. Addirittura il leader del movimento britannico euroscettico Farage ha detto: è un voto contro l'Europa così com'è, quindi lo interpreta in questo modo. Comunque, dicevamo, vari elementi da valutare. Prima di tutto gli scenari, che cosa succede adesso? Intanto avete visto che Mattarella, vi raccontavo prima, in questo colloquio che ha avuto con Renzi, ha detto: adesso congeliamo le tue dimissioni, arriviamo alla fine dell'iter della manovra economica e poi dopo potrebbe Renzi lasciare definitivamente venerdì Tra l'altro adesso le opposizioni chiedono le elezioni, Grillo chiede di andare con l'Italicum, con la legge diciamo voluta da Renzi, e dice anche al Senato si potrebbe utilizzare questa legge magari rivista e corretta, mentre anche la Lega chiede elezioni subito. Berlusconi dice andiamo in tempi brevi al voto, però sembra più propenso a una riforma della legge che sia proporzionale. E poi invece D'Alema, grande nemico di Renzi, almeno come abbiamo visto negli ultimi mesi, dice il paese non può andare a elezioni anticipate, serve un governo. Allora io intanto saluto Angela Mauro dell'Huffington Post, buonasera Angela. Buonasera, buonasera. E Barbara Fiammeri, bentornata Barbara del Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Barbara. Allora, innanzitutto Angela, quindi dei motivi se ne è parlato tanto in queste ore, ma adesso quali sono gli scenari? Questa è stata la decisione di Mattarella, no? Che diciamo nelle funzioni del Presidente della Repubblica fare una richiesta di questo tipo. Sì, ragione, è una richiesta che era nell'aria prima del voto, quando si disegnavano scenari di sconfitta del sì, mettere al sicuro la legge di stabilità per tranquillizzare i mercati, tranquillizzare l'Europa, i rapporti internazionali, ed era nell'aria anche che Renzi accettasse, anche se non avrebbe voluto farlo, ma direi era piuttosto costretto dalla situazione. Ora che succede? Se riescono ad approvarla, come dicono, entro venerdì, perché il pacchetto sarebbe blindato, sempre se, perché bisogna vedere in Senato cosa succede, ricordiamo che il Senato è il vincitore forse un po' di questa battaglia referendaria, perché doveva essere abolito o semi abolito, invece lì vivo e vegeto in Senato gran parte l'opposizione, vorrebbe mettere le mani sulla legge di stabilità e modificarla, cosa che la maggioranza non vuole fare. Vedremo cosa succederà, può darsi che colpi di scena non ce ne siano, perché come ricordavi tu prima, la gran parte dello schieramento del no, dell'opposizione, vuole le urne anticipate, quindi può essere che anche loro siano interessati a sbrigare subito la faccenda legge di bilancio, dimissioni di Renzi, un governo breve che porti il paese al voto. Io vedo questo scenario e tra l'altro è diciamo dopo 24 ore dal KO vedo un Renzi che ha deciso di restare alla guida del partito, mentre ieri notte, come ricordate sicuramente, giravano le voci più diverse, un suo sfogo, mollo tutto, mollo anche il PD, mollo la segreteria, mollo il governo. Questa opzione pare essere tramontata oggi, dopodomani in direzione invece dovrebbe presentarsi da segretario a tutti gli effetti, per puntare poi ad un voto anticipato anche lui, contando di far leva sulle richieste, una richiesta di questo genere che arriva anche da tutto il fronte del no, tranne che dalla minoranza Dem che ha votato no. Forse diciamo, ci sono più, paradossalmente ci sono più differenze tra la linea di Renzi e quella della minoranza antirenziana del PD che tra la linea di Renzi e l'opposizione che ha scelto il no. Senti, a questo proposito, Angela, farei sentire cosa ha detto fra le varie cose Massimo D'Alema, sentiamo. Il Partito Democratico deve tornare ad essere il Partito Democratico, essendo chiaro che non è il partito di Renzi, come scrivevano i giornali. Naturalmente Renzi nel Partito Democratico è una forza fondamentale, non è che io gli voglia togliere il suo spazio, diciamo. Veramente era lui che voleva rottamare gli altri, spero che questa passione gli sia passata. Barbara Fiammeri, sentito, è stato uno di quelli che ha esultato di più Massimo D'Alema dopo la sconfitta del sì e quindi di Renzi, insomma, se va a san dire, perché lo abbiamo detto più volte, è Renzi che ha commesso l'errore di personalizzare dall'inizio e quindi ne deve trarre le conseguenze anche da quel punto di vista, no? Sì, in questa dichiarazione che hai fatto ascoltare di D'Alema, questa dichiarazione prosegue con D'Alema che dice adesso serve un governo che prosegue fino al termine della legislatura, fino al 2018, che era un po' quello che stava spiegando prima Angela a proposito di una minoranza PD che non è così incline ad andare al voto, al voto anticipato. La direzione del PD che si svolgerà mercoledì probabilmente ci farà capire meglio qual è la direzione quale sarà l'atteggiamento del partito. Al momento sembra che la maggioranza che è attorno a Renzi regga, ovvero che anche Franceschini, Orlando siano sulla posizione del Premier. Però appunto poi bisogna vedere se questa posizione regge, perché è chiaro che in gioco c'è anche la permanenza in Parlamento per un altro anno, e non bisogna mai sottovalutare questo aspetto. Per quanto riguarda invece quello che stavate dicendo, cioè sugli scenari, mi sembra sì, il problema della legge di bilancio, l'approvazione della legge di bilancio, la messa in sicurezza anche per quanto riguarda Monte dei Paschi di Siena. È probabile che il governo intervenga anche in tal senso in questi giorni, in queste ore direi, quindi che già domani ci potremmo trovare con un provvedimento da presentare al Parlamento. Dopodiché Renzi uscirà da Palazzo Chigi, sarebbe dal suo punto di vista avrebbe voluto fare questo passo già oggi, appunto, ma il capo dello Stato gli ha fatto presente che un premier dimissionario non avrebbe potuto chiedere la fiducia e portare avanti quindi la legge di bilancio, e quindi Renzi ha fatto ha condiviso questa responsabilità, a cui ha fatto appello il capo dello Stato, e si dimetterà probabilmente venerdì, non, come dicevamo, o durante il weekend, più probabilmente, dipende proprio dai tempi in cui si voterà la legge di bilancio. Sì, volevo chiedere ad Angela Mauro. Angela, ci sono alcuni ascoltatori, no, sul fatto di lasciare o meno il PD o di sparire addirittura. Per esempio, dice questo ascoltatore: Simone, Renzi è l'unico perdente che si è dimesso nella storia della politica italiana, Bersani guarda e impara. Poi Luca: lasciate stare Renzi per favore, ha avuto il coraggio di cambiare, mi auguro che non si dimetta, il tempo è lungo e ancora il tempo per risorgere e fargliela pagare. Cosa pensi, Angela, che adesso si farà brevemente da parte, ma probabilmente essendo giovane, anche comunque intelligente, al di là che piaccia o no, troverà il modo di ritornare sulla scena? Beh sì, penso proprio di sì, è un po' il senso del tweet che ha fatto oggi uno dei suoi fedelissimi, Luca Lotti, sicuramente l'avrete letto, che dice sostanzialmente dobbiamo ripartire da lì, da questo 40% che noi abbiamo, alla fine anche questo referendum pur nella sconfitta ci conferma che abbiamo questa percentuale, abbiamo questi 13 milioni e rotti, se non sbaglio, di voti, ed è da lì che dobbiamo ripartire. Non significa scissione, non, almeno per ora questa è un'opzione non sul tavolo, non significa creiamo il partito della Leopolda, significa semplicemente riproviamoci, e quindi Renzi, sì, come dicevi tu, non esce di scena, non lascia la segreteria del PD. E diciamo, ho appena finito di scrivere un pezzo in cui si disegna uno scenario che, appunto, elezioni subito, magari senza fare il congresso del PD adesso, rimandandolo comunque, tenendolo, confermandolo comunque per la fine dell'anno, la fine del 2017, proprio per evitare di spaccare il partito, dividersi in mille rivoli, perché andare al congresso significherebbe per Renzi probabilmente anche cominciare una battaglia con parte della sua stessa maggioranza, no? Magari non so, Giovani Turchi vorrebbero candidare uno dei loro, magari anche i franceschiniani farebbero altri calcoli. Ecco, forse andare alle elezioni subito potrebbe contribuire, potrebbe tenere il partito unito, rimandare la sfida congressuale alla fine del 2017. Tanto si andrebbe alle elezioni con un sistema proporzionale, perché a giudicare dall'elenco che facevate voi prima, quando avete richiamato un po' le notizie del giorno, le dichiarazioni dei vari gruppi, ci sarebbero, credo, solo i grillini a dire andiamo al voto con l'Italicum, comunque certo a loro conviene, no? Anche al Senato potrebbe funzionare l'Italicum, pare che Berlusconi sia di centro proporzionale, cominciano a parlare tutti una lingua proporzionalista, e anche i renziani fanno ormai lo stesso ragionamento, e questo lo trovo molto molto interessante, un elemento di novità che è arrivato solo dopo la sconfitta. Grazie Angela Mauro dell'Huffington Post, so che devi continuare. Grazie a scrivere a ciao Angela. Sì. Invece a Barbara Fiammeri farei sentire Toninelli del Movimento 5 Stelle. L'Italicum l'abbiamo già battuto, perché grazie ai nostri ricorsi la Consulta ne esprimerà il vaglio di costituzionalità, certamente ne boccerà alcune parti, dimentichiamoci dell'Italicum, sarà una nuova legge elettorale della Camera, e noi chiediamo che venga applicata anche al Senato, questo per andare a votare subito, per non bloccare il Parlamento ancora per un anno e mezzo. Capito Barbara Fiammeri, a proposito di Italicum, di Grillo, del fatto che il Movimento 5 Stelle appunto vuole andare il prima possibile elezioni, ce l'abbiamo già in realtà modificato, non è esattamente, non è quello. Bisognerà vedere, allora la Corte Costituzionale si sarebbe dovuta esprimere ad ottobre, ha deciso di rinviare il suo verdetto proprio come dire in rispetto alla campagna referendaria e anche perché doveva prima di decidere anche sapere quale Costituzione si sarebbe trovata di fronte. È probabile che la Corte non si esprima prima di febbraio, almeno così dicono alcuni boatos parlamentari. Nel frattempo ci sarà un nuovo governo ed è questo il punto, che tipo di governo? Renzi propende per un governo appunto di passaggio che porti alle elezioni, un po' come vorrebbero anche le opposizioni, in particolare 5 Stelle e la Lega. Forza Italia mi sembra che abbia una posizione leggermente più sfumata di questo ritorno al voto. Qui incide anche il fatto che mentre il Movimento 5 Stelle ha il vento in poppa, mentre la Lega è sottorappresentata attualmente in Parlamento, perché quando è entrata era nel momento di massima crisi nelle elezioni del 2013, oggi invece ha raddoppiato i consensi, almeno stando ai sondaggi, quindi ha convenienza diciamo ad andare alle elezioni, i suoi parlamentari non sono impauriti dal voto. Nel caso di Forza Italia invece la situazione è inversa, quindi anche qui bisogna capire che cosa vuole fare veramente Berlusconi, che non si può permettere di strappare con Salvini perché altrimenti non va da nessuna parte, ma che lavora sotto per una legge proporzionale che gli consenta margini di autonomia, cioè di non rimanere schiacciato su questa destra lepenista che ha detto che non gli piace. Barbara, ti leggo il messaggio di un ascoltatore, Alberto, che è bello che non dice la sua opinione, dice: secondo mia moglie questo patrimonio di voti ottenuti da solo rispetto a una coalizione variegata si possono ripresentare alle prossime elezioni politiche perché voteranno sicuramente Renzi e il suo partito, cioè questo 40% del sì contro la stravittoria del no, dice, è qualcuno ritiene che siano tutti voti pro Renzi e che quindi se lui li ricapitalizzasse insomma questo patrimonio potrebbe farcela. Come la vedi tu? Allora, la vedo che certamente l'uno contro tutti ha evidenziato che da una parte, come dire, c'è un fronte abbastanza unito, che poi sia un fronte tutto renziano io non credo. Però credo certamente che è un fronte di chi non vedeva in questo sì una scelta autoritaria e che vedeva nel cambiamento delle prospettive che miglioravano il paese, altrimenti non si sarebbe posizionato in questo senso. Dall'altra parte non c'è dubbio che il successo del no di questo 60% comunque va ripartito tra le diverse forze politiche che si sono, come dire, espresse in tal senso. E quindi c'è questa ipotesi, ma non è un caso, insomma, cioè Renzi se chiede le elezioni, è uno di quelli che chiederà le elezioni nel più breve tempo possibile. Dici? Perché che le chiederà? Renzi andrà a fare le consultazioni al Quirinale come segretario del partito e capiremo quello che succede nella direzione del PD, però a oggi a quello che a noi risulta, come diceva anche la collega dell'Huffington, è che Renzi propende per elezioni anticipate, ma è anche abbastanza abbastanza evidente la ragione, cioè al di là di quello che vuole Renzi o delle convenienze di Grillo piuttosto che di Salvini, c'è un dato che è inequivocabile, cioè questo è stato un voto politico sul governo, sull'attuale maggioranza. Il 60%. Su questo non c'è dubbio e probabilmente anche lo ha evocato Renzi sin dall'inizio, no? Come voto politico. Se no non si sarebbe dimesso, no? Chiaro. E quindi se è così, il 60% degli italiani, degli elettori, hanno detto che questa maggioranza non gli sta bene. Sì. Allora questo è un dato politico di cui lo stesso capo dello Stato non può non prendere atto e forzare il completamento di una legislatura che comunque si poggia. È azzoppata, dici? Non è opportuno. Il rischio è quello di far crescere il vento dell'antipolitica per il malcontento. Barbara Fiammeri, allora ci risentiamo magari in occasione proprio della direzione del PD, vediamo se emergono qualche prospettiva, qualche direzione. Grazie Barbara Fiammeri. Buonasera. Ciao, buon lavoro. Direi che ci fermiamo brevemente, molti vostri messaggi. Alessandro scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: il prossimo scenario potrebbe essere Grillo, sicuramente Renzi era il meno peggio. Davide, sentendo parenti e amici, alcuni hanno votato no perché non conoscendo o capendo la riforma hanno preferito non approvarla. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora, sempre sulla politica, sempre sul dopo voto, il day after, gli scenari che si stanno prefigurando. Ve l'ho detto più volte, ne abbiamo parlato, che Mattarella, quindi per il momento lo scenario così imminente, immediato, è quello di congelare le dimissioni di Renzi almeno sino a venerdì, per mettere in sicurezza la legge di bilancio, la manovra economica. I vostri messaggi ancora alla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 che per il numero per WhatsApp ed SMS. Adesso vedo una dichiarazione del ministro dell'Interno Alfano che dice già nei prossimi giorni sono possibili le dimissioni formali di Renzi, ma dal punto di vista politico siamo già in un regime dimissionario. Questa è un'anticipazione da Porta a Porta, la puntata registrata di questa sera. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali. La vittoria del no al referendum, il Presidente della Repubblica Mattarella chiede a Renzi di rimandare le dimissioni a dopo l'approvazione della manovra economica. Le opposizioni chiedono le elezioni, Grillo vuole andare al voto con l'Italicum e per il Senato in una versione corretta. Salvini dice no a un esecutivo di scopo, Berlusconi chiede che il PD assicuri il governo del Paese. Le reazioni dei mercati, nessun panico dopo il referendum, Piazza Affari chiude in leggero ribasso, ancora vendite sui bancari. Ma il Financial Times afferma che la crisi dell'Italia è una minaccia per l'Unione Europea più grave della Brexit. Conti pubblici, l'Eurogruppo chiede misure aggiuntive per la manovra che è a rischio di non rispetto del patto e sottolinea che motivo di preoccupazione è anche l'alto debito. Francia, il primo ministro Valls, candidato all'Eliseo, annuncia le sue dimissioni in accordo col presidente Hollande. La strage senza fine delle donne, ennesimo femminicidio, questa volta vicino Napoli. Un uomo ha ucciso fracassandole la testa la moglie che lo voleva lasciare, il figlioletto di 3 anni. Poi si è suicidato. In provincia di Milano è stato ritrovato il cadavere di una donna avvolto nel cellophane. Le morti sospette all'ospedale di Saronno, rimane in carcere il medico accusato di aver ucciso diversi pazienti. Allora, dicevamo che un dato molto importante che è emerso da questo voto non è soltanto la vittoria del no, ma anche una enorme affluenza che probabilmente non ci si aspettava, il 67% degli aventi diritto del voto che ha premiato chi era contrario alla riforma. Un boom di elettori, si parla di 33.243.845 persone che hanno votato, un numero superiore a qualsiasi altra consultazione referendaria, appare paragonabile soltanto alle politiche del 2013. Ne parliamo con Rinaldo Vignati, ricercatore dell'Istituto di Ricerca Carlo Cattaneo di Bologna. Buonasera, professore. Buonasera. Quindi ho dato molto velocemente alcuni dati. Tra l'altro il no ha vinto soprattutto al sud, tra i giovani, che era una cosa probabilmente che Renzi non si aspettava, e tra le fasce di reddito più basse. Quindi vuol dire che il paese è fatto soprattutto di sud, di chi non sta benissimo i giovani, non potrei dire che sono soprattutto i giovani, no? In Italia, visto che siamo un paese vecchio. Si può dire che nel referendum si sono sovrapposte tante questioni. C'è stata la questione costituzionale, perché era un referendum costituzionale che aveva un quesito relativo a riforme costituzionali, ma poi c'era la questione politica, perché si votava sostanzialmente sul governo Renzi, se tenerlo o farlo cadere, e c'è anche la questione sociale, perché i dati che ci mostrano, che hanno analizzato altri ricercatori del Cattaneo, che mostrano che in alcune città come Bologna, nei quartieri con reddito più basso, il no ha preso percentuali più elevate. Questo indica che appunto c'è anche una questione di protesta di carattere sociale, di rifiuto dell'establishment che si esprime attraverso questo voto. Quindi motivazioni costituzionali, politiche, sociali si sono sovrapposte e hanno prodotto il risultato che abbiamo visto. Le uniche 3 regioni dove ha prevalso il sì sono state la Toscana, l'Emilia Romagna e l'Alto Adige, quindi la provincia di Bolzano, non Trento. E poi Milano è l'unica metropoli, no? Dove ha vinto il sì? Milano e Firenze e Bologna tra le grandi città. Hanno visto prevalere il sì. Lei come istituto di ricerca Carlo Cattaneo, lei come ricercatore, come vi spiegate questa affluenza così massiccia? Probabilmente per i motivi che si diceva prima, che si sono sovrapposti. E sono stati una spinta, quindi, motivazionale. Incentivi. Il fatto che ci sia stata una campagna così lunga e il referendum, la riforma sia stata presentata come un grande cambiamento, oppure come una trasformazione che poteva trasformarsi in una deriva autoritaria, secondo i critici, ha fatto sì che tutti si sentissero molto più toccati di quanto fosse avvenuto nel 2001 e nel 2006, quando le campagne per i referendum costituzionali passarono, non dico in sordina, ma certo non furono né lunghe né intense quanto lo è stata questa. E quindi, insomma, questi diversi fattori hanno fatto sì che la partecipazione fosse così alta, sorprendentemente alta, perché nessuno si aspettava che una partecipazione elevata, ma non così come quella che si è registrata. Professor Vignati, abbiamo ancora un minuto per sintetizzare i flussi in questo caso. Sì, brevissimamente, i flussi ci dicono che la cosa sorprendente è che il Movimento 5 Stelle, che è il partito più nuovo e si potrebbe pensare meno radicato, è in realtà quello che esprime l'elettorato più compatto. Il 90% in tutte le città di chi aveva votato nel 2013 Movimento 5 Stelle oggi vota no, compattamente. Viceversa, il PD e il PDL si dividono in tanti rami. Nel PD prevale il sì al 70-75% a seconda delle città, ma un 20-25% sceglie il no, in coerenza con le scelte della minoranza del partito Bersani, eccetera. E ancora più diviso è il PDL, dove prevale il no al 60% all'incirca, ma dove c'è un 20-25% che sceglie il sì e un 20% che si astiene. Quindi, chiarissimo, quindi il partito, il movimento, come vogliamo chiamare, più compatto e più coerente è stato il Movimento 5 Stelle in questo caso. Questo sicuramente. Questo già nel referendum delle trivelle era emerso che gli elettori del Movimento 5 Stelle avevano una certa compattezza, che in questo caso è stata confermata, è ancora aumentata. Benissimo. Grazie professor Rinaldo Vignati dell'Istituto Carlo Cattaneo. Grazie professore. Grazie a voi. Buona serata. Buon. Noi andiamo in viabilità tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve li ricordo in pochi secondi, la vittoria del no al referendum, ne abbiamo appena parlato col Presidente della Repubblica Mattarella, che ha chiesto a Renzi di rimandare le dimissioni e di congelarle a dopo l'approvazione della manovra economica. Intanto le opposizioni chiedono elezioni anticipate, e la reazione dei mercati non c'è stato nessun panico dopo il referendum, Piazza Affari chiude in leggero ribasso. E poi per quanto riguarda i conti pubblici, l'Eurogruppo chiede misure aggiuntive per la manovra. E adesso lo spazio europeo. Eurozone. Incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi parliamo di pesce spada. Prima l'ala lunga, poi il tonno, e oggi il pesce spada hanno subito delle limitazioni alla pesca. L'Europarlamento ha approvato il piano per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo tra Unione Europea e paesi della costa sud. Il timore tra alcuni parlamentari italiani è che, come nel caso del tonno rosso, la nuova distribuzione di quote vada a penalizzare i piccoli pescatori italiani. Ne parliamo con l'europarlamentare Michela Giuffrida, che saluto. Cosa prevede il piano? Il piano prevede che a questo punto si introducano delle quote, così come effettivamente era già successo in passato, quando l'obiettivo era tutelare

quotidianamente si svolge nei vari presidi sanitari, negli ospedali. Abbiamo il malato, cittadinanza attiva, abbiamo il mass media, ci sono, come dire, la società civile è organizzata per in qualche modo intervenire, denunciare. Certo che la maggiore, diciamo così, consapevolezza anche del livello istituzionale, che sono l'ordine dei medici, è auspicabile. Professore, ci dobbiamo lasciare, la ringrazio intanto, professor Franco Toniolo, grazie, noi ci riaggiorniamo alle 22.